tutto giorno di Simone Spezia. Scattano oggi una serie di misure antismog. A Napoli 6 giorni di blocco del traffico per 8 ore. A Milano stoppa i veicoli inquinanti. Allerta anche per la siccità. Proseguono con scarse speranze i colloqui di pace sulla Siria a Ginevra. Sale a 70 il numero di vittime delle bombe nel santuario sciita. Esplosione in una villa di Sanremo. Muore la proprietaria e ferito Gabriel Garco. L'attore era ospite in vista del Festival di Sanremo, appunto, che lo vedrà tra i protagonisti. La Gran Bretagna autorizza la manipolazione di embrioni umani a scopo di ricerca. Non si potrà fare oltre la prima settimana e non saranno impiantati. A Genova è il caso di un insegnante di musica indagato per abusi e possesso di materiale pedopornografico. Ha continuato ad insegnare, ora arrestato per violenza. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24. Su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, il 349-238-6666, tanto per i vostri sms quanto per i messaggi su WhatsApp. Apriamo parlando dello smog e della mancanza di piogge. Scattano oggi in alcune città una serie di misure anti-inquinamento. A Milano e in altri 21 comuni dell'Interland le misure partono, in caso, come sempre, in caso di superamento per 10 giorni consecutivi della soglia media giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10. Le limitazioni riguardano la circolazione delle auto Euro 3 diesel senza filtri antiparticolato e la diminuzione di un grado centigrado dei riscaldamenti e la riduzione di 2 ore della durata di accensione degli impianti. A Napoli anche scatta il blocco della circolazione. A Napoli 6 giorni di stop al traffico, fino a sabato 6 febbraio 8 ore giornaliere di blocco, 350.000 mezzi coinvolti, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 torna dopo un mese il divieto di circolazione in città per l'innalzamento dei livelli delle polveri sottili. Lo certifica l'ARPAC, l'Agenzia per la Protezione Ambientale. Esentati dal blocco i veicoli elettrici, ciclomotori e motoveicoli a 2 e 4 tempi, mezzi alimentati a gas e metano a Euro 4 e successivi. Gran parte dell'inquinamento atmosferico a Napoli è prodotto però dai gas delle navi al porto e dai mezzi pubblici, non tutti adeguati alle normative vigenti. Carmelo Prestisimone, Radio 24, il Sole 24 Ore Napoli. Un problema che si sta acuendo ovviamente a causa della mancanza di piogge che sta generando anche problemi di altro tipo, evidentemente. Saluto Ivan Portoghese, che è ricercatore dell'IRS, l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno Portoghese, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dà un quadro della situazione generale? Guardi, la situazione nasce da un quadro climatico contingente. In pratica c'è una condizione di alta pressione che nella letteratura scientifica viene indicato come situazione positiva dell'indice NAO, che ci assicura una assenza di precipitazioni e alta pressione. E questo è il quadro. Scusi, Portoghese, quello sul quale mi volevo soffermare con lei è più che altro gli effetti, e se abbiamo dei termini di paragone per capire quanto è grave questa situazione. Sono situazioni piuttosto ricorrenti. L'ultima così grave sembra quella del 2003, in cui c'è stata una ridottissima presenza di precipitazioni nevose che in un bacino come quello del Po e quelli del Alpini, comporta una primavera povera di deflussi. Quindi se non abbiamo neve e non abbiamo neve, appunto, la situazione potrà anche peggiorare. Quindi speriamo in un'inversione di tendenza, ma i segnali non sono positivi. La ringrazio, grazie ad Ivan Portoghese, ricercatore dell'IRCE, dall'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR. Sono salite ad almeno 71, e passiamo all'estero, le vittime della strage a Damasco, dove in un luogo di culto sciita c'è stato un attentato ieri. Come sapete, decine i feriti all'indomani dell'attacco terroristico rivendicato dall'ISIS. Riprendono a Ginevra i colloqui, in stanze separate tra regime ed opposizione siriana, in un clima di forte sfiducia. Per capire come possono andare le cose nelle prossime ore, ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno, e quali sono le tue previsioni, se se ne possono fare, evidentemente? Ma questi negoziati apparivano improbabili sin dall'inizio. Teniamo presente che non sono stati invitati i curdi di Rojava, cioè i curdi, gli eroi di Kobane, tanto per intenderci, quelli che stanno facendo la lotta al califfato. Ebbene, sono rimasti fuori dalla porta per il veto della Turchia. Poi sono venute queste delegazioni dall'Arabia Saudita, che però non hanno mandato a negoziare. Quindi mi sembra molto chiaro che sono, come dire, negoziati esplorativi, e in generale si potrebbe dire questo: è l'inizio dei negoziati sulla Siria, appena l'inizio, e forse la soluzione, l'unica possibile e immaginabile, è quella di un cessate il fuoco che in qualche modo non lasci né vincitori né vinti per il momento, a meno che la diplomazia fallisca ancora una volta e la guerra sia l'unica alternativa. Dicevi un cessate il fuoco, ti sembra alle viste e in che tempi secondo te, Alberto? Beh, ci vorrebbero mesi, credo, ci vogliono mesi. Faccio un precedente: nel 1988, quando dopo la guerra Iran-Iraq, al termine della guerra Iran-Iraq, si arrivò a una tregua dopo 8 anni di guerra e una trattativa molto lunga che fu condotta alle Nazioni Unite, tra l'altro, da un italiano, Gian Domenico Picco, che diventò all'epoca molto noto proprio per questo. Ma ci vollero appunto anni e poi mesi di negoziati per arrivare a un cessate il fuoco. Quindi, come dicevo prima, siamo ancora all'inizio. La parola per il momento purtroppo resta ancora alle armi, per una tragedia umanitaria che forse è la peggiore nella nostra area della Seconda Guerra Mondiale. E grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per questa analisi. Nel frattempo il terrorismo torna a colpire anche in Afghanistan. C'è stato un attentato questa mattina a Kabul, vicino ad un compound della polizia. Il bilancio è di 10 morti e 20 feriti, per lo più civili. Lo ha comunicato il viceministro dell'Interno. Ieri una strage anche in Nigeria. Sono una novantina le vittime dell'attacco di Boko Haram al villaggio di Dalori, vicino alla città di Maiduguri, non distante dal confine con il Chad. Dalori si trova nei pressi di un campo profughi, dove hanno trovato rifugio migliaia di sfollati che cercano di fuggire dalla guerra civile scatenata ormai da 7 anni dai terroristi di Boko Haram. Ma la Nigeria è un grande paese. Da Maiduguri, nel nord-est musulmano, ad Abuja, la capitale, ci sono 800 chilometri e altrettanti separano Abuja dal delta del Niger, dove la maggioranza della popolazione è cristiana e più ricca grazie allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio. La Nigeria non è solo il più popoloso paese africano, ma anche il più ricco, con un PIL nel 2014 di 480 miliardi di dollari. Oggi però la crisi del petrolio sta mettendo a dura prova anche la Nigeria, che si è trovata a dover chiedere un prestito d'emergenza da 3,5 miliardi di dollari all'FMI e alla Banca Mondiale. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. In un paese che vive questo clima difficile arriva oggi il presidente del Consiglio Renzi con una delegazione di industriali per una missione in Africa, che porterà questa delegazione anche nella Repubblica del Ghana e in Senegal. Ci spostiamo in Gran Bretagna adesso, dove è arrivato il via libera questa mattina alla manipolazione degli embrioni umani a scopo di ricerca. La decisione è tanto storica quanto controversa. Per la prima volta al mondo, un gruppo di scienziati britannici hanno l'espressa autorizzazione a mettere le mani, o meglio le forbici, su embrioni umani. Dopo il clamore suscitato dagli esperimenti condotti dalla Cina, di nascosto dal mondo, oggi è direttamente l'autorità per la fertilità e l'embriologia britannica a dare il via libera alla modificazione genetica di embrioni umani, di appena 7 giorni, rimasti non utilizzati in procedure di fertilizzazione in vitro. L'obiettivo è quello di comprendere e possibilmente prevenire le cause degli aborti spontanei e della sterilità. È molto importante effettuare studi sugli umani perché in questa fase dello sviluppo ci sono molti geni che sono presenti unicamente negli embrioni umani e non possono essere trovati ad esempio nei topi, ha dichiarato alla BBC la dottoressa Katie Niekan, a capo dell'esperimento. Dalla fantascienza si passa così alla realtà, ma cosa accadrà a questi embrioni? Gli scienziati disattiveranno alcuni dei loro geni per capire che funzione hanno sullo sviluppo embrionale, visto che al momento il 50% delle uova fertilizzate non riesce a svilupparsi in modo corretto, possibilmente a causa di difetti nel codice genetico. Non si tratterà però di costruire bambini perfetti in laboratorio. Gli embrioni modificati, infatti, non potranno essere trapiantati nell'utero materno. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. La cronaca italiana: esplode una villa a Sanremo, una donna è morta, è definito in ospedale Gabriel Garco, che sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo. Si è salvato perché dormiva al piano inferiore della villetta in cui risiedeva Gabriel Garco, il conduttore dell'imminente Festival della Canzone di Sanremo dal 9 al 14 febbraio. Lo scoppio, infatti, forse per una fuga di gas, si è verificato verso le 9 al piano superiore, dove si trovava la padrona di casa di 76 anni che ne è rimasta vittima e una collaboratrice dello staff del presentatore. L'onda d'urto ha scagliato detriti nel raggio di 50 metri. L'attore è stato trasportato in ospedale, ma non è grave. Non ha evidenti segni di trauma, ma abrasioni ed escoriazioni. Gli accertamenti sono in corso e la prognosi è di 10-15 giorni. Garco, in attesa di trasferirsi in hotel per i giorni della rassegna, alloggiava a Villa della Rosa, una vigilia del Festival di Sanremo, col fiato sospeso. Ma non è la prima volta, come racconta Eddie Anselmi, esperto della manifestazione Canora. Nel 1963 Lelio Duttazzi, che è uno dei due musicisti chiamati a dirigere l'orchestra, andò a Sanremo insieme a Franco Cerri e hanno un incidente anche loro, non riescono a sedere sul palco. Ma il Buongiorno del 78 parte da Milano, c'è una nevicata che blocca l'autostrada e arriva a Sanremo che il festival è finito. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sempre per la cronaca, una storia che arriva da Modena: botte, offese, bestemmie, punizioni eccessive, tanto che i bambini non volevano più andare a scuola per paura di lei. È il comportamento di una donna di 52 anni, maestra d'asilo e anzi coordinatrice di una scuola per l'infanzia, che è ritenuta responsabile di maltrattamento aggravato su bimbi fra i 3 e i 5 anni. Nei suoi confronti i carabinieri della compagnia di Pavullo del Frignano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ritorneremo più avanti, tra poco, in realtà, a parlare di scuola con un'altra vicenda che arriva da Genova e che già vi accennavamo nei titoli: la vicenda di un insegnante di musica ai domiciliari perché sospettato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11 anni. All'indomani del Family Day e alla vigilia dell'approdo in aula del DDL sulle unioni civili, il dibattito, per così dire, continua a fervere. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Si va verso l'accordo PD Movimento 5 Stelle per le unioni civili. Il premier Matteo Renzi non ha intenzione di retrocedere nemmeno sulla stepchild adoption, ovvero l'adozione del figlio del partner in una coppia omosessuale. Renzi rispetta la piazza del Family Day, ma si dice da fonti di Palazzo Chigi la legge non è più rinviabile. Quanto alla libertà di coscienza all'interno del PD, non verrà data tutta la legge ma ad alcuni punti sensibili, tra cui anche la stepchild adoption. Un crinale scivoloso perché si potrebbe dare la possibilità ai grillini e alla minoranza Dem di dare la spallata al premier per questioni politiche e non di merito, magari camuffato da un voto segreto. Da domani il testo va in aula al Senato. Area Popolare chiede, continua a chiedere cambiamenti sulle adozioni, con lo stralcio sull'articolo 5, quello appunto sulle adozioni. Anche Enrico Zanetti, appena diventato viceministro di Scelta Civica, chiede lo straccio sulle adozioni, ma il PD è disposto a concedere solo piccole modifiche, forte anche del rimpasto di governo che ha premiato il partito d'Alfano e anche Scelta Civica. Intanto, secondo gli ultimi dati Istat del 2011, le famiglie gay sono meno di 8.000 e solo in 500 hanno figli, ma ricordiamo che molte coppie omosessuali decidono poi di non dichiararsi. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Conti pubblici e banche. Parla il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan in un'intervista al Messaggero. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il ministro dell'economia sottolinea i risultati raggiunti dal nostro paese rimandando al rapporto sulle finanze pubbliche emanato la scorsa settimana dalla Commissione europea. Ancora una volta, dice allora Padoan, Bruxelles ha ribadito che nel lungo termine il nostro debito pubblico è il più sostenibile di tutti. Quello che il rapporto ha voluto segnalare, aggiunge Padoan, è che con un debito così alto siamo più esposti agli shock. Un fatto, questo spiega il responsabile del tesoro, di cui il governo è consapevole e per questo ha collocato il debito su una traiettoria discendente. Ma per il ministro dell'economia in Europa la cultura dell'austerity è comunque ancora forte. Altro capitolo, quello delle banche. Per Padoan sono stati sottovalutati gli impatti della riforma sui salvataggi degli istituti. Bisogna procedere a questo punto con più energia verso l'introduzione di un meccanismo europeo di garanzia dei depositi. Le parole di Padoan, Simone, nel pieno del risico bancario di fusioni e aggregazioni nel nostro paese ad agitare le acque, le indiscrezioni prontamente smentite che vorrebbero un'ipotesi poste come paracadute per MPS, visto che sembra ormai sfumata l'idea del matrimonio a tre con UBI e BPM, intenzionata invece a verificare in tempi brevi la fattibilità della fusione alla pari col Banco Popolare. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e non a caso si muovono in questa direzione due dei titoli appena citati dal nostro collega: la Popolare di Milano che guadagna l'1,13%, il Banco Popolare il 5,46%. In una giornata di borsa che vede un nettissimo calo per Luxottica, in questo momento meno 7,21%, dopo le notizie che riguardano uno dei due amministratori delegati, Adil Mehboob Khan, arrivato nell'ottobre 2014, che lascia e lascia le deleghe al presidente, maggior azionista e fondatore Leonardo Del Vecchio. A chiudere questa prima parte ci occupiamo di calcio e ci occupiamo soprattutto del derby di Milano e della sconfitta dell'Inter. Come diceva Mihajlovic, la vita anche nel calcio è un ascensore, quello del milanista sale, quello di Mancini scende invece in picchiata, come nei grattacieli che quando si va giù manca l'aria e fischiano le orecchie. Se per il Milan questo derby vale triplo perché gli si apre uno spiraglio per l'Europa, per l'Inter diventa invece un pozzo senza fondo perché certifica una profonda crisi. Seconda sconfitta di fila dopo quella di Coppa Italia con la Juve e solo 5 punti nelle ultime 6 partite di campionato. Poi c'è Mancini, sempre più nervoso, come potete ascoltare. Sì, ho fatto il dito medio a 8-9 tifosi, no, che mi sentavano morti, così l'ho fatto, contenta? Ecco, solo, allora insomma... basta, ho detto che l'ho fatto, fine del discorso. Va bene, ok. Ecco, ok. Grazie. Cagate. Un Mancini cupo, acido, che incolpa i giornalisti, gli arbitri e perfino i giocatori. E che non sa stare allo scherzo quando Mihajlovic gli dice che con tutti quei nuovi acquisti l'Inter dovrà far fare un nuovo album alla Panini. Dietro ai musi lunghi c'è un'incapacità a dare un gioco, un'anima, un progetto. E questo calcio, in perenne crisi economica, non permette un altro anno di mediocrità. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo di due temi essenzialmente. La prima è una vicenda di cronaca che riguarda quello che vi accennavo, una vicenda di molestie a scuola avvenuta nel ponente ligure, e l'altra è il terrorismo. In queste ore ha preso corpo un allarme lanciato dal ministro della difesa francese, il quale dice: sono molto preoccupato per la Libia, Lampedusa è ad appena 350 chilometri, il rischio che con la primavera l'ISIS o comunque i terroristi islamici si infiltrino in Europa attraverso l'Italia è forte. Ne parleremo con un esperto di terrorismo a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie principali: scattano oggi le misure antismog a Napoli, 6 giorni di blocco del traffico per 8 ore, a Milano stop ai veicoli inquinanti. Proseguono con scarse speranze i colloqui di pace sulla Siria a Ginevra all'indomani dell'attentato in un importante luogo di culto sciita. Sono adesso 71 le vittime appunto dell'attacco terroristico di ieri. È stata un'esplosione in una villa a Sanremo, è morta la proprietaria e ferito Gabriel Garco, che era ospite là in vista del Festival di Sanremo che lo vedrà fra i protagonisti. La Gran Bretagna ha autorizzato la manipolazione di embrioni umani a scopo di ricerca. Non si potrà fare oltre la prima settimana e non saranno impiantati. Veniamo adesso ad occuparci di scuola, o meglio di un caso che riguarda una scuola del ponente ligure. Che cosa è successo? È successo che un insegnante di musica è stato accusato ed è agli arresti domiciliari per una presunta violenza su una ragazzina di 11 anni, una violenza sessuale. Qual è il punto? È che quest'uomo, pur incensurato, aveva due fatti alle spalle che potevano far sospettare che ci fosse qualche problema. Era stato indagato per possesso di materiale pedopornografico e poi l'inchiesta era andata in prescrizione, e poi era stato indagato, e in questo caso l'inchiesta era stata archiviata, sempre per una questione di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. A quello che ci vogliamo chiedere oggi, molto semplicemente, è come fosse possibile che quest'uomo continuasse ad insegnare. Ne vogliamo parlare con Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Rusconi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Anzi, bentornato ai nostri microfoni. Allora, il tema è esattamente questo. Ora, magari l'uomo è perfettamente innocente di tutte le accuse che gli sono state rivolte in passato, del resto è incensurato appunto, e anche di quella che gli viene rivolta adesso. Certo però che, come dire, un qualche timore da questi precedenti poteva venire e forse poteva ipotizzare, magari la stessa scuola, di assegnarla ad un compito che non prevedesse contatti con i ragazzi. È possibile? Non è possibile? Ma guardi, gli insegnanti non vengono scelti dalla scuola, almeno per adesso, vengono assegnati direttamente dagli uffici scolastici, cioè dall'ex provveditorato, per cui se l'insegnante viene messo su una cattedra di musica deve fare l'insegnante di musica. Se non ci sono, diciamo, dei precedenti, come si dice, passati in giudicato, il preside ha scarsissimi se non nulli strumenti dal punto di vista giuridico amministrativo. Ha però, diciamo così, può intervenire con tutta una serie di accorgimenti. Uno è, ci sono esposti presenti da parte... Mi dica una cosa, Rusconi, lei nella sua carriera ha avuto episodi simili? Sì, io ho avuto ben due episodi simili, uno niente meno finito in tribunale perché io ho denunciato il preside, teniamo conto che ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria anche un sospetto che ci possa essere relativamente a fatti di questo genere o di altro genere criminoso. E è finito in una bolla di sapone perché col passare degli anni a un certo punto i genitori hanno voluto sottrarre la ragazza che era stata molestata e ne avevamo la certezza al 99%, era stata molestata da un insegnante, dopo un po' di anni la ragazza si è voluta sottrarre a tutta quella trafila di psicologi, giudici, così via, quindi tutto è finito in una bolla di sapone, fermo restando che, ripeto, gli accorgimenti ci possono essere. Io, preside, vengo a sapere che ci sono dei precedenti, anche se non sanzionati penalmente, faccio in modo che in quella classe ci possa essere anche un insegnante in compresenza in maniera tale che possa assistere, adesso è possibile con la nuova legge che dà insegnanti in più alle scuole, faccio in modo che ogni tanto qualcuno entri in classe a vedere, faccio in modo che il bidello durante, so che è successo durante un intervallo, che il bidello, che sono i bidelli che sono un elemento importante della scuola italiana, possano essere sempre molto attivi. A me è successo in sospetti di questo tipo di prendere due bidelle particolarmente brave, sveglie, poi le donne sono più sensibili da questo punto di vista, e dire loro, quando c'è l'intervallo, sempre come gendarmi là, qualsiasi cosa voi vediate mi chiamate e io faccio immediatamente la denuncia ai carabinieri. Gli strumenti non sono moltissimi, però sono accorgimenti. Sono solamente accorgimenti e l'intervento deve essere più dall'alto. Io la ringrazio, grazie a Mario Rusconi per averci aiutati a capire che cosa può essere successo e che cosa si sarebbe potuto fare. Alessandro Orsini, direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università di Roma Tor Vergata, docente di sociologia del terrorismo alla LUIS, autore del libro appena uscito ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli, è uscito con Rizzoli da poco, insegna anche al MIT, all'MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Orsini, quindi parecchie cariche. Orsini, benvenuto e bentornato ai nostri microfoni anche a lei. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, per parlare di questo allarme che è stato lanciato dal ministro della difesa francese, che dice: occhio, sta per arrivare la primavera, l'ISIS occupa sostanzialmente 300 chilometri di costa libica, Lampedusa è appena 350 chilometri, il rischio che dei terroristi arrivino sulle coste europee tramite l'Italia e tramite Lampedusa è piuttosto alto. Che cosa dice Orsini? È un allarme fondato o anche, se vogliamo ipotizzarlo, un'idea da parte dei francesi di distogliere l'attenzione dal fatto che gli attentatori di Parigi erano sostanzialmente tutti francesi? Io direi che l'allarme è molto fondato. Qualche tempo fa ero più scettico su questa possibilità, oggi non lo sono affatto, per la semplice ragione che le cose sono cambiate in maniera molto grave. In Siria, in Libia, noi abbiamo adesso circa 3.000 miliziani dell'ISIS che sono distribuiti in tre città, che sono tutte sulla fascia costiera, vale a dire Sirte, Bengasi, Derna, Shdabia, Nofilia e in parte anche a Sabrata. E di conseguenza il rischio è grande ed è davvero difficile immaginare che la Francia, che Parigi non vengano colpite di nuovo. È davvero difficile immaginarlo perché l'Europol, che come sappiamo è l'ufficio di polizia dell'Unione Europea, ha rilasciato un documento di recente, è uscito il 18 gennaio scorso, quindi molto aggiornato, in cui è scritto che al-Baghdadi avrebbe costituito un comitato permanente che si occupa di organizzare attentati contro la Francia. E sempre in questo documento è scritto testualmente che l'ISIS è in grado di colpire come, dove e quando vuole. In sostanza questo è quello che è emerso dopo gli attentati del 13 novembre. Per cui dobbiamo tutti entrare purtroppo in un clima psicologico diverso rispetto al passato, che è quello che tutti conosciamo. Senta Orsini, il fatto che questo allarme venga dal Ministero della Difesa e dal Ministro della Difesa forse non è casuale, perché forse si vuole sottolineare l'urgenza di un'azione da parte appunto dei paesi europei, e non solo dei paesi europei, probabilmente anche degli Stati Uniti in Libia. Va a dire che la sua osservazione è molto acuta, nel senso che da alcune settimane, da alcuni mesi, la Francia e gli Stati Uniti stanno effettuando dei voli di ricognizione segreti sulle postazioni dell'ISIS in Libia e si accingono a colpire. E Obama ha più volte convocato il suo gabinetto di massima sicurezza per discutere la possibilità di un bombardamento aereo sulle coste della Libia. E quindi io direi che uno di questi giorni noi ci sveglieremo con i bombardamenti a due passi da casa nostra. Negli Stati Uniti questo tema è dibattuto, se ne parla sul New York Times, in Italia molto meno. Ma la realtà dei fatti è che ormai i bombardamenti contro l'ISIS in Libia sono imminenti, per la semplice ragione che la strategia più intelligente di tutte, che era quella promossa dall'Italia, è fallita, in quanto noi speravamo in un governo di unità nazionale tra Tobruk e Tripoli affinché facessero loro il lavoro sporco sul terreno. E invece, come sappiamo, questo governo di unità nazionale è stato bocciato dai parlamenti, in particolare dal Parlamento di Tobruk, e di conseguenza noi abbiamo soltanto due alternative davanti a noi: o rimanere a braccia conserte aspettando che questi 3.000 miliziani dell'ISIS diventino 6.000, oppure un intervento aereo. Tenga conto però che la situazione è drammatica, perché io penso che i bombardamenti aerei non sortiranno nessun effetto importante contro la Libia, perché sappiamo dall'esperienza in Siria e in Iraq che i bombardamenti aerei senza truppe di terra creano soltanto più problemi. Sì. Perché se noi ci limitiamo... E non è, le devo dire, e qui la saluto Orsini perché dobbiamo chiudere, non è, come dire, il primo esperto che consultiamo che ci dice questa cosa, insomma, boots on the ground, sembrano dirci gli esperti, ci vogliono in Libia. Grazie ad Alessandro Orsini, direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università di Roma Tor Vergata, poi insegna anche alla Luis Guido Carli di Roma, all'MIT di Boston, è autore del libro appena uscito ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati e poi torniamo a Sanremo per capire un po' che cosa succede. Ci collegheremo con un collega giornalista della Stampa che si trova là, nella zona dove c'è questa villetta, dove c'è stata un'esplosione, è morta una donna, ferito Gabriel Garco, pochi giorni al Festival di Sanremo, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura una notizia battuta poco dalle agenzie: la Commissione Europea replica all'Italia sui contributi nazionali al fondo di 3 miliardi di euro per la Turchia. Non vengono tenuti in conto nel calcolo del deficit, lo ha detto il portavoce dell'esecutivo europeo, la cosa era già stata inserita negli accordi. Per quanto riguarda l'extra deficit per affrontare l'emergenza migranti, dice l'Europa, ne parleremo in primavera. Scattano oggi le misure antismog in una serie di città, in particolare a Napoli e Milano. A Napoli 6 giorni di blocco del traffico per 8 ore, a Milano lo stop ai veicoli inquinanti e poi l'obbligo di abbassare di un grado la temperatura degli impianti di riscaldamento, che dovranno anche diminuire l'impiego per 2 ore al giorno. Allerta anche per la siccità. Proseguono con scarsa speranza i colloqui di pace sulla Siria a Ginevra. Sarà 70 il numero di vittime delle bombe nel santuario sciita colpito ieri vicino a Damasco. C'è stata l'esplosione in una villa di Sanremo, è morta la proprietaria e ferito Gabriel Garco. L'attore era ospite in vista del festival che lo vedrà tra i protagonisti. Notizia di pochi istanti fa, i giorni di prognosi sono 10. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e saluto Giulio Gavino, che è un collega giornalista della Stampa. Giulio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te Simone, buongiorno a tutti i radioascoltatori da Sanremo. Allora, sei a Sanremo, almeno quantomeno c'eri questa mattina, quando è esplosa questa villetta con una vittima, la proprietaria di questo immobile, 77 anni, e dentro anche uno di quelli che dovrebbero essere i protagonisti del Festival di Sanremo, no? Certo, una tragedia, un'esplosione, una violenza inaudita, quasi come se fosse scoppiata una bomba sulla collina con vista mare di Sanremo. Pensate che appunto la casa in questo momento è sotto sequestro per le attività di indagine, ma sta cadendo su se stessa, sta crollando proprio a causa delle gravissime lesioni che hanno interessato tutto l'immobile. Appunto, Gabriel Garco, che adesso ha una prognosi di 10 giorni, ma insomma mi sembra improbabile che non partecipi al festival. È vivo davvero per miracolo, perché pensate appunto qua lui dormiva nel piano sottostante dove si è verificata l'esplosione, il letto dove si trovava è stato sfiorato dall'onta d'urto che ha distrutto le finestre, distrutto le imposte, scagliato un cancello pesante diversi quintali a una decina di metri, il cancello di ingresso delle automobili, e lui è stato colpito dai calcinazzi, si è alzato e pochi secondi dopo essersi alzato il soffitto è crollato sul letto dove dormiva. Quindi vivo davvero per miracolo. È stato tramortito, esatto. Sì, cioè proprio la casualità, ecco, è stato molto molto molto fortunato. Purtroppo invece l'esplosione ha investito, la fiammata ha investito in pieno una donna che è morta carbonizzata. Giulio, in 10 secondi veramente, una fuga di gas a quanto pare, no? Sì, una fuga di gas, avrebbero confermato i vigili del fuoco, si sono accertamenti per verificare le procedure di installazione o se ci fossero comunque rispettate nell'immobile tutte le norme, misure di sicurezza. Misure di sicurezza. Grazie a Giulio Gavino, collega della Stampa, al quale auguro una buona giornata e un buon lavoro. Come sapete, effetto giorno, il lunedì è un po' più breve. Ci sentiamo adesso Mario Platero, che tra l'altro è in Iowa. Sentiamo.